Posso farti una domanda? Posso farti una domanda? Posso farti una domanda? Post rock questa sera su un'altra Radio Roma. Sono giunti qui in questo momento la band che fino adesso abbiamo tenuto nascosto per due motivi. Uno, perché non sapevamo se venivano. Se venivano, perché ci hanno telefonato. Forse non vengono più. A mangiare qualche pizzeria. E il secondo è perché ci piaceva lasciare un po' di suspense, vero mio certo, caro collega? Perché la gente si chiedeva chi c'è e chi non c'è, che diceva che si era invaghito della voce della bassista e ti faceva i complimenti, però ha detto bella la voce della bassista, ti fai i complimenti. No, davvero? Sì, no, è vero, guardi. Io. No. Comunque volevamo dire ai nostri ascoltatori che Alessia è fidanzata, mi dispiace. Posso farti una domanda? Posso farti una domanda? È inutile parlare in onda, Coco. È un deficiente. Che Gasperino è un deficiente. Grazie a un'altra radio, siete veramente simpatici, è stato veramente un perfetto, piacere. È in perfetto orario. Si inizia con il orario single, con la nostra parte. Sigla che ormai è diventato un cult. Ormai è storia, è storia. Vado, vado. Via, vado, via, vado, via, via. A-I-I-O-U, A-I-A-U. Un'altra intervista. Intervista. Un'altra Radio Roma. Radio Roma. Eccezionale. Eccezionale. Io direi veramente eccezionale. Un'altra intervista. Intervista. Un'altra Radio Roma. Posso farti una domanda? Nella carbonara ce la mette la cipolla? Cipolla. Cipolla. Quel tipo di cipolla. Sotto licenza Creative Commons. Un'altra intervista. Intervista. Un altro modo di domandare. Un'altra intervista. Intervista. Per sapere di tutto. Un'altra intervista. Intervista. Per parlare su tutto. Su tutto. Su tutto. Su un'altra Radio Roma. Radio Roma. Posso farti una domanda? Importante. Importante. Importante, un'altra intervista. Importante, importante, importante. Posso farti una domanda? Importante, importante, importante, importante. Un'altra Radio Roma. Importante, importante. Posso farti una domanda? La musica Creative Commons non è smessa. E basta. Allora, allora, allora, finalmente entriamo nel vivo di questa puntata, Mr. Cocot. Io farei, come al solito, una mossa strategica. Allora, presentatevi e dite chi siete. Ciao a tutti, noi siamo i Jarmas, sono Federico e sono qua con Alessia e Alessandro. Perfetto, che siete tre di quattro elementi di un gruppo romano che presenta il post rock, giusto? A quanto pare sembra di sì. Sembra di sì, perfetto. Certo. Che potete, come abbiamo detto all'inizio, trovare su Bandcamp. Bandcamp. Bandcamp. Lì che abbiamo scovato questo gruppetto. Diciamo subito due o tre cose. Come vi siete conosciuti? Perché avete deciso questo genere? Come è nata, cioè, questa voglia di quattro persone di esprimersi in questa maniera? Alessia. Allora, io sono la penultima arrivata, per cui in realtà mi innesto dentro la sua formazione da un annetto circa. Poi posso parlare per Alessandro, che noi da un mesetto circa come batterista, prima avevamo un altro ragazzo che era Massimo. E forse è meglio che passo a Federico e Alessandro, che loro sanno meglio almeno la genesi. Diciamo che il gruppo sicuramente è nato come lo sviluppo di un'amicizia che c'è da tempo fra me e il vecchio batterista Massimo e con Alessandro. Ci siamo formati nel 2008, che era il periodo in cui avevamo appena rivisto i My Bloody Valentine dal vivo a Glasgow addirittura, e da allora abbiamo deciso di fare una cosa del genere. Sì, ciao, sono Alessandro. Fondamentalmente sì, tutto nasce da un incontro così pseudo casuale, no? Vogliamo dirla così, anche perché io, questo riguarda me, diciamo, ho avuto un bel periodo di pausa musicale in cui ho fatto, cioè, non ho toccato la chitarra per anni. No, veramente. Ah, niente musica, perciò. No. Cioè, hai fatto ero passato tutt'altro. Da che ho avuto i gruppi, vabbè, facevamo cover, eccetera. poi non ho più suonato per tanto tempo. A un certo punto mi è ritornata quella cosa, il tipo, no, ma che cazzo sto a fare? Perché, cioè, fortunatamente è l'unica, cioè, una delle cose più belle che esista. Se uno ha, non c'è mai abbandonato. E fortunatamente penso non hai venduto i tuoi strumenti. Ovviamente no. Però ci hai pensato in quel periodo? No, no, quello sarebbe stato estremo, un gesto estremo, infatti. Quasi. Cioè, noi non, io e Federico, l'altro chitarrista, non ci conoscevamo bene direttamente. Ah, okay. Io conoscevo Massimo, che era il batterista. E tramite così parlando, ci ho fuori, oh, ma perché te vuoi suonare? Vuoi iniziare a suonare? Vabbè, dai, vediamoci. Abbiamo iniziato così, cioè cazzeggiando. Inizia sempre così. E poi, appunto, come ha detto lui, i pezzi sono nati nel tempo, dopo un lungo periodo in cui ci si incontrava in saletta senza un'idea precisa, senza un obiettivo soprattutto. Cioè, l'obiettivo era quello, cioè suonare in quel momento, non esisteva la cosa facciamo, registriamo, andiamo a suonare al vivo, non c'era, insomma. Che era poi, così? Sì, sì, sì, sì, sì. Quello che e anche perché comunque ognuno di noi aveva diciamo, inclinazioni musicali diverse. Io venivo più dal prog, okay, progressive rock, metal, cioè ho suonato solo quello prima, no, in precedenza. Mentre loro, appunto, il batterista Massimo veniva più dalla scena hardcore, anche perché lui in realtà, Massimo, è uno dei più grandi chitarristi che abbia mai conosciuto. Si era messo a suonare la batteria così. Però tu dove l'hai visto suonare la chitarra? Con chi? Suonavo con qualche altro gruppo? Suonava, sì, con i Desperate Living. In realtà suona tuttora. E poi ha smesso? No, ancora suona. Poi, appunto, diciamo, ci siamo separati perché lui, appunto, vuole diciamo, premere l'acceleratore più sul suo gruppo, insomma. Ah, ecco. Quindi piano piano. E così piano piano. Perciò, da dove arriva questo nome e come avete deciso? Ah, allora, questa è la cosa, poi, la seconda domanda, che è quella più importante. Qua passo il microfono a Federico, allora. Perfetto. Allora, vista l'impostazione progressive di Alessandro, per un certo momento abbiamo deciso di chiamarci Gnome o Gnomi. Però in effetti era troppo progressive come nome, e quindi abbiamo deciso di chiamarci gli uomini. Ma che uomini forse era un po' troppo demenziale, poteva sembrare sviare, insomma, su quelle potevano essere le nostre. E quindi abbiamo cercato una parola con uomini al suo interno, e visto che comunque c'era Jarman che ci girava nella testa, perché è uno dei nostri registi preferiti. Infatti poi ci arriviamo a questo discorso. Cioè, oltre il nome, no? Cioè, voglio dire, sì, in qualche modo, infatti, è quello che ci dicevamo noi all'inizio, ma probabilmente sono. Infatti, dal nostro punto di vista, non vorremmo che potrebbe essere presentoso come cosa, perché meno male chiamarsi Jarman è come chiamarsi, ne so, Kubrick o Rossellini. Sì, tanto ci ha chiamato un brano. Ci rendiamo conto che è un po' impegnativo, però anche perché quando abbiamo deciso di chiamarci Jarman eravamo ancora a livello di un gruppo che suonava nelle cantine, cioè come adesso nelle cantine, però non pensavamo a un progetto musicale a lunga. Ma perché il post rock? Cioè, io lui è più per cercare su curiosità con chi suonavate, con chi suona Massimo, eccetera. A me interessano poi altre cose, perché si arriva a certe espressioni, no? Perché il post rock? Ma sicuramente perché come a livello di influenze, la cosa che ci è rimasta più dentro è quella degli anni 90, insomma, dei gruppi come Geno 44, Slint, ma anche quello che rimane ora di quel periodo come Mogwai o Codice Astronaut, se vogliamo. Cioè, l'intenzione è lavorare su quell'idea di musica per proporre qualcosa di personale. Poi logicamente ci rimane molto di quei gruppi quando lavoriamo, quando proprio siamo in saletta, ma cioè, non, è impossibile non... anche perché improvvisando molto è difficile staccarci da quelle cose, perché si vede che ci sono rimaste molto dentro e sono quelle che pensiamo ci diano più senso alle cose che facciamo. Ma era il tipo di musica che ascoltavate di più o no? Perché lui dice che viene dal metal. Io infatti sinceramente quando ho cominciato a suonare in questo gruppo avrei voluto fare cose tipo Pelican, ancora okay, un po' più tipo Isis, okay. Però lavorando ci siamo resi conto che quasi inconsapevolmente che le cose migliori di quelle che facevamo erano quelle che potevano venire fuori da quel tipo di sonorità, quindi non c'è stata un'idea di voler fare quelle cose, però via via sono una di quelle. Quindi. E qual è il legame con il cinema, visto che comunque il nome del gruppo in qualche modo ha un legame con il cinema? Anche qualche traccia? leggendo i titoli, o c'è qualcuno che no ama... sicuramente perché Alessandro lavora nel cinema, quindi tutti noi siamo grandi appassionati di cinema, fra l'attore sì. Che lui lavorava un documentario su Kubrick, era settembre, e quindi ok la cosa è molto telecomandata, ma insomma allora io farei una cosa, guarda, se siete d'accordo, per adesso vi abbiamo cercato di mettervi a vostro agio, mi sembra che in qualche modo ci stiamo riuscendo, dai, sì. perché quello che ci interessa è poi stare a fare una chiacchiera, e quando si fanno le chiacchiere poi escono le cose migliori. Passerei subito un brano, così cominciamo a far conoscere quello che è l'arte. Passerei proprio a Kubrick in settembre, che mi avete già spiegato che sia Kubrick era perché stavi facendo un documentario tu, Alessandro, su Kubrick, e stava da settembre quando è nato e tutto. Poi il significato, quello introspettivo, abbiamo trovato dopo, ovviamente. Allora facciamo così: il significato introspettivo ce lo dici subito dopo il brano, se sei d'accordo. Va bene. Ok. Eccoci, eccoci tornati. Ci siamo, Mr. Gaspo, dammi l'ok. Ho appena dato dall'album The Sentence and Play e la prima traccia, Kubrick in September, dei German Band. Che qui, in questa pausa, mentre ascoltiamo questa traccia, dovevamo cercare qualcuno che spiegasse il significato intrinseco di questa traccia, la profondità di questa traccia, dove sta. E qui a rispondere abbiamo Alessandro. Vai, col Chuck. Ci ho pensato un po' in questo momento. Beh, potrebbe essere l'incontro, no? Il paradosso che c'è tra l'incontro tra la perfezione, o quello che vuole tendere alla perfezione, cioè Kubrick, e settembre, che è un periodo, insomma, è il mese che socialmente parlando nell'anno è quello che rappresenta il momento di rinizio, quindi di incertezza. E quindi l'unione, cioè come se appunto, cioè metaforicamente parlando, come se fosse, cioè, la storia di un personaggio che ha sempre cercato la perfezione, ma che si ritrova in un momento che la perfezione non può essere più un metro su cui può basare la propria esperienza quotidiana. Questo. Possiamo aggiungere di meglio, no, ci è piaciuta benissimo. Ma proprio per questo, no, siccome vedo che le parole non vi mancano, nonostante la vostra musica invece ha diverso, la voce non c'è, solo strumenti. E continueremo così, Però ci dice che c'è l'esigenza di mettere qualche parola da qualche parte, o anche una frase, perché ho sentito tanti gruppi post rock che a un certo punto in una traccia mettono una frase, insomma, sei battute, sei cose. A voi è mai venuta la voglia di mettere una parola, qualcosa? Sì, è successo pure a noi, perché quello che è l'intro dei nostri concerti, che in realtà nel CD è la traccia nascosta, però adesso ve l'ho detto, non è più nascosta. Allora, si sente? Sì. Allora, si tratta dell'introduzione di Alejandro Jodorowsky. Sì. Non so se lo conoscete, un artista, regista negli anni 70 che ha fatto La Montagna Sacra, Il Topo, diciamo film un po' particolari di culto, che poi hanno, diciamo, che sono diventati di culto magari più là nel tempo, insomma, che sì. E si tratta appunto di questa introduzione del primo film che ha fatto, che si chiama Fando Ilis, che racconta appunto di un paese fantastico inventato, dove lì appunto sarebbe stato il luogo della rinascita, sì, diciamo, in una ipotetica società dedica al declino. Ok. Quindi è un po' quello che potrebbe essere nei giorni nostri, cioè oggi. Una fotografia dei nostri giorni. Ci vorrebbe un posto metaforico, dove uno vorrebbe ritornare. E qui c'era l'esigenza di mettere una frase, cioè ritorno alla domanda che aveva fatto lui. Se useremo parole, chi può dirlo? Finora non c'è mai venuta l'esigenza. Quindi in questo momento abbiamo cercato non di esprimere solo musicalmente. Come poi del resto un filone del post rock che dice proprio che è chitarra, basso e batteria. Esatto. No? Cioè, avervi di fronte e chiedervi, no, questo brano che volevate raccontare, che volevate dire, è molto semplice. Ma voi quando scrivete un brano e quindi poi gli date un significato sia musicale che appunto quello fatto delle note e dell'espressione artistica, vi sentite a termine di un brano, quindi di una registrazione, di una prova o di un concerto, che quel brano così suonato ha raggiunto effettivamente quello che volevate dire, o in qualche modo vi piace anche l'idea che possa dare una sensazione, un'emozione diversa a chi l'ascolta? No, magari con il quarto pezzo dell'EP, Bioluminescenza, penso che l'idea sia quella che comunque la gente si può fare se, una volta che l'ha sentito, perché è un pezzo molto, se vogliamo, acquatico, dà l'idea di una cosa molto, cioè almeno noi lavorandoci vogliamo dare l'idea di una cosa molto, di un suono liquido, di una profondità molto anche emotiva, se vogliamo, e pensiamo che almeno dal vivo l'idea possa rendere quello che noi avevamo in partenza quando l'abbiamo scritto. E, l'idea dell'acqua, insomma, l'idea della profondità, comunque collega un po' tutti i quattro i brani, anche perché The Saint racconta, insomma, il fatto di anche una sorta di comunanza. Ma un pezzo, no? Cioè, visto che stiamo parlando dell'espressione artistica, che è il massimo della difficoltà è poi quello di passare un messaggio. Se ci sono le parole è molto più semplice, farlo solo musicalmente diventa ancora più laborioso. Un pezzo come nasce? Da un giro, qualcuno fischia qualcosa, da un'emozione, da un momento, da mettersi in una sala di ho provato a trovare questo e poi ci si riunisce. No, guarda, alla fine penso che i quattro pezzi, almeno quelli che stanno sull'EP, sono il frutto di un anno e mezzo di improvvisazione, perché forse i punti di partenza erano dei riff che abbiamo portato io o Alessandro, ma poi è stato un lavoro lunghissimo, sia perché ogni volta ricominciavamo a lavorarci sopra partendo dall'improvvisazione su quel riff che portavano magari dalla volta precedente, ma poi non eravamo mai soddisfatti, un po' perché non... insomma, inizialmente eravamo senza basso, quindi eravamo senza frequenze basse, quindi a volte io, a volte lui cercavamo di coprire insomma quel tipo di frequenze, ma poi non no, se è quello che intendevi, non abbiamo raggiunto subito l'idea del pezzo, è stato frutto di un'elaborazione continua, un percorso, sì, anche grazie soprattutto all'apporto di Massimo, ci ha aiutato molto nel dirimere insomma le parti che potevano essere più plausibili, soprattutto in un lavoro di eliminazione delle cose in più, eliminando il più possibile e arrivando all'essenza più semplice del pezzo, insomma. Ok. E io farei una cosa, se siete d'accordo. Hai detto The Saint, no? Prima hai parlato di The Saint. Sì. La passiamo? Sì. Siete d'accordo? Il titolo completo, Dillo tu perché è chilometrico. È difficile. Saint who taught muscles being wiser. E dopo ci spiegherai che vuol dire. L'ha detto lui? No. No. Non l'hai detto? Aspetta. Aspetto. Allora, quest'estate io ero in vacanza con la mia compagna, che saluto dall'alto se l'ascolta. Ciao. Non so, Aria. E stavo mangiando le cozze. Sì. E siccome eravamo ancora un po' incerti su come chiamare i vari pezzi con gli altri del gruppo, ho mandato un messaggio a Alessandro dicendo di cozze e anche Alessandro stava mangiando le cozze, quindi in quel momento abbiamo deciso che le cozze erano un elemento fondamentale per... E dopo diremo il significato introspettivo. Mi piace questo progetto Denartra Radio de Roma, si dice così, sì. 1-1-1-1-2-3, prova, ritorniamo qui con i German Band e dall'album The Saint abbiamo ascoltato la traccia che Alessandro prima ha dovuto dire perché noi non siamo riusciti a dire. E comunque c'è un'altra spiegazione di questa traccia. Sì, questa che volta pensata in questa pausa Alessandro. Diciamo, l'azzardo io. Facciamo anche come se fosse una via di mezzo fra ascoltatrice e autrice, perché avendo io ereditato i loro brani, che erano già formati, mi ci sono fatta un'idea io dovendo scrivere tutte le parti di basso. Allora, se possiamo dire il titolo collegato a questa canzone, che dice letteralmente che il santo che ha insegnato alle cozze ad essere sagge, e io la penso come, vista il movimento ostinato dell'inizio del brano, come diciamo un'azione assurda e disperata, perché non puoi insegnare a una cozza ad essere saggia in quanto è un mitile senza cervello, però essendo lui un santo probabilmente ci è riuscito e ha fatto il miracolo. Le cozze sono sagge. Beh, allora colleghiamo la cosa a chi è questo santo. Esatto, che abbiamo una storia che insomma mi ha presentato Federico, sì. Che è la storia di questo santo Stefano, che nel 1200 lui vede Dio, la Madonna che gli parla e gli dice di fare una crociata, sì. E lui se ne va in giro a raccogliere tutti i bambini, perché era giovanissimo anche lui, aveva 12 anni. Prima va dal re e gli chiede i soldi per poter andare a fare la crociata. Naturalmente il re gli risponde in una maniera poco consona alla sua corona regale e lui se ne va in giro a raccogliere, gli fa una pernacchia, e lui se ne va in giro a raccogliere altri ragazzini arringandoli e convincendoli ad andare a fare questa la crociata. Crociata non la fa, perché quando arriva al porto a Marsiglia chiede una nave che non gliela danno, se non sbaglio, però lo imbarcano su una nave di mercanti e questi mercanti prendono lui e tutti i ragazzini e li vendono ai musulmani come schiavi. Quindi questo è il nostro santo. Anzi, la nave naufraga, vengono salvati da dei mercanti e poi venduti come schiavi, per cui alla fine è così. Le uniche parole che abbiamo insomma sono scritte nei titoli e basta, quello però per un discorso pratico. Più che altro direi che ci sono troppe parole in giro oggigiorno, cioè si parla troppo, cioè talmente così tanto che le parole hanno preso il sopravvento appunto a quello che è la musica e a quello che può essere l'emozione, no? Perché un'emozione ormai siamo abituati a esprimerla a parole, e invece no, non è così. Cioè la lingua è arrivata dopo l'emozione nell'essere umano e forse l'ha un po' anche traviata, e quindi anche questo secondo me è una cosa che sentiamo tutti e quattro. Io ne stavo parlando proprio prima con Federico, perché la mia esperienza diversamente da loro è stata diversa, perché io suono stabilmente con un'altra band che fa parte invece della scena indie rock di Roma, e ho iniziato a suonare con loro perché sentivo un po' il bisogno di discostarmi da quello che stavo facendo in quel momento, e ho conosciuto tutta questa nuova scena, perché naturalmente alla fine suonando un certo genere magari sei più portato ad ascoltare le altre band, diciamo, al nostro livello che fanno le stesse cose, e a me si è aperto un mondo che non conoscevo, pieno di tante cose interessanti e che mi sta piacendo tantissimo. E con tutte le, devo dire che tutte le band che ho conosciuto tramite loro che facevano questo genere, quindi da post rock all'alternative all'hardcore, sono tutti bravissimi. Io sono rimasta veramente stupefatta, venendo da una scena che in questo momento, quella indie rock, non mi sta più piacendo e mi sta dando letteralmente proprio dei problemi a livello intimo. E perché, come diceva Alessandro, certe volte le parole veicolano dei messaggi che sovrastano la musica e magari non ti piacciono nemmeno. insomma, ritornando al discorso generale, ho conosciuto tantissime altre band bravissime che fanno questo genere. Ci sono i nostri amici in Merrovescio del Veneto, con cui siamo stati e abbiamo fatto un po' fateci un po' di noi anche per conoscerli noi, noi della radio. Ieri sera abbiamo suonato con l'Elide e i Dry Seas, che sono altre due band romane che sono stati bravissimi. So che in qualsiasi altro momento una serata del genere avrebbe potuto richiamare tantissima gente, perché i Dry Seas e l'Elide sono dei gruppi veramente di un livello che forse, specialmente l'Elide, sono giovanissimi, sono molto più giovani di noi, ma hanno una potenza, un impatto che era tanto che non vedevo a Roma. Ma soprattutto siamo in contatto a livello strettissimo con i Crimen e gli Holdrin. I Crimen perché è un altro gruppo, anzi, se Simone ci ascolta lo saluto. Loro ciao Simone. Ciao Simone. Anche da un altro Radio Roma. Il gruppo che condivide la nostra stessa etichetta. Noi siamo su Creative Commons, ma c'è un'etichetta di Napoli, la Black Rocks, che ci sta aiutando. E con i Crimen, a parte il discorso dell'etichetta, stiamo cercando di creare una sorta di unione fra le band che propongono un genere simile a Roma. No, noi al momento abbiamo, oltre ai brani dell'EP, abbiamo due o tre brani già pronti, però dobbiamo un po' pensare se rifare un altro EP o fare un disco ancora un po' più lungo. Sinceramente, parlando insomma con gli altri della band, pensavamo di fare una cosa un po' più lunga, di certo, almeno 6-7 brani, e cercare di coinvolgere anche altre realtà della scena romana. Bello. Infatti nei prossimi giorni volevamo cominciare a provare a suonare con Michele della Gale Mociata, che è un gruppo sulle sonorità slowdive, shoegaze, e per me lui è un poeta del delay, perché usa la chitarra in maniera fantastica, e la sua nuvola di suono penso che potrebbe star bene con le nostre storture chitarristiche. E oltre a lui ci piacerebbe anche collaborare con anche col cugino di Alessandro, che suona il sassofono, il socio. E altri, anche Simone Grimmer, ci farebbe piacere poterlo invitare come cantante, e altri gruppi insomma della scena, senza parole, sì. Usare le parole in funzione poetica penso che sia una delle cose più difficili che esista, sì. Soprattutto oggigiorno, in cui tutti, appunto, come dicevo, pensano di dire una frase e pensare di aver fatto chissà che, invece non hanno fatto niente di che. La parola usata in senso poetica, certo, è arte anche quello, cioè è l'utilizzo che rende una cosa artistica o poetica. Però purtroppo la musica appunto si avvalsa ultimamente di testi non molto profondi, cioè se guardiamo al progressive anni 70, insomma, là i testi, ogni parola è calcolata, una cosa di rivolta la nostra. Passo un altro brano. Grande. Grande. Grande. Grande. Grande. Grande. Grande. Grande. Grande. Na na na na na na radio. Roma. Io farei qui, in questo momento farei un referendum, cioè lancerei una domanda su Facebook e direi: preferite dei German un nuovo EP o un album bello lungo di quelli importanti? Diteci, che loro stanno aspettando consigli, quindi tutti quelli che sono su Facebook possono tranquillamente dire la propria e noi poi la rigireremo a questa fantastica band post rock, ok? Abbiamo con questa pezzo che abbiamo appena sentito, vogliamo citare indegnamente il titolo di un libro di De Genova, che è un sociologo americano. Ecco, un altro libro, altre parole, sì, dietro un pezzo musicale. No, è figa, guardate che a me stupisce questa cosa, a me piace, cioè vuol dire che comunque in qualche modo voi avete metabolizzato un messaggio a tal punto da poterlo trasformare in musica, cioè non è una cosa da poco, non sto sottolineando un fatto da poco, cercate di capirmi. Poi è chiaro che io difendo la parola, sono radio. Prego. No, niente, praticamente in italiano significherebbe la scena dell'esclusione e lo sceno dell'inclusione, che si riferisce al trattamento degli immigrati messicani negli Stati Uniti, perché la scena dell'esclusione sono il filo spinato, le camionette della polizia, e lo sceno dell'inclusione sono i meccanismi attraverso cui deve passare l'immigrato per integrarsi. E lo stesso succede in questi mesi. Esempi, proprio attuale, voi l'avete pensata prima. Sì, lo stesso può essere trasmesso in piccolo, con le due proporzioni, anche nell'ambito della scena musicale, il fatto che uno deve prima oltrepassare delle barriere e poi abbassarsi a delle... L'esperienza dell'essere di poco fa ci raccontava, sì. Emigrare, no? Però certo, logicamente questo è un gioco, però noi ci faceva piacere omaggiare lo scrittore, cioè il sociologo, perché abbiamo visto talmente tante volte le scene delle camionette, della polizia, del filo spinato, che in qualche modo non servirà, però insomma noi teniamo a questo discorso e volevamo un attimo insomma omaggiarlo insomma nel nostro piccolo e... cioè raccontarlo insomma, sì. Poi in fin dei conti le canzoni, la musica non è nient'altro che un raccontare un'emozione bella, triste, che può essere l'amore o una cosa brutta. Questa è... ci ha risposto qualcuno sulla domanda posta? Ci ha soltanto risposto, è scritto Davide Piccolo Hardcore, che lui suona con in camera 237. Ah, e no, quella è camera 237, infatti ne stiamo parlando, con la C. E sono del sud, e loro sono camera 237 con la K, e hanno fatto degli album con Sostanze Record, sempre la net label romana, e loro fanno un drum and bass hardcore molto spinto. E diceva che si era invaghito della voce della bassista e ti faceva i complimenti sia a voi che alla musica. Infatti mi ha chiesto, mi dai il link per la band, però ha detto bella la voce della bassista, ti fai i complimenti. No, davvero? Sì, no, è vero, guardi. Io. No. Guarda, stupisce, non sta dicendo una bugia, cioè di solito dice delle grosse fesserie. No, ci credo. È arrivato un messaggio così, guarda se non rompi il computer per fargli leggere il messaggio adesso. Non è un libro, non lo puoi girare. Comunque volevamo dire ai nostri ascoltatori che Alessia è fidanzata, mi dispiace. Sono affari suoi. Adesso... sono affari suoi. Adesso ci cala l'audience subito. Ok, è arrivata la fatidica domanda che Mr. Cocot pone a tutte le formazioni che devono lasciare l'intervista. Sta rispondendo, salutiamo Davide Piccolo Hardcore. Senza secondi fini, senza malizia, insomma, è veramente molto onesto. È un gentiluomo. È un gentiluomo. Come? È vero. Non serve la minigonna, l'importante un gentiluomo, un vero hardcore gentiluomo. Perfetto. Bravo, grazie. E adesso passiamo alla domanda fatidica che chiuderà l'intervista di German Band. In pratica dovete farvi una domanda e darvi una risposta. Questa è una domanda che non dovete rispondere. La fa perché non sa come dire ai gruppi, guardate, è giunta alla fine, cioè un deficiente che segue Mazzullo la notte, che sa fa queste domande e lui le ripone in radio. Io la domanda ve la faccio, non so come lui, ed è molto più complicata di tutte le altre, quindi vorrei una risposta da tutte e tre. Vi lascio esattamente 2 minuti per dire quello che volete. Va bene, no, della selezione. Il fatto che comunque, cioè, l'uomo deve capire che cazzo sta a fare su questa terra, fondamentalmente. E penso che il processo musicale sia un po' una metafora della ricerca. perché anche perché la musica esiste in natura e non esiste allo stesso tempo, cioè proprio da un punto di vista quasi fisico, no? E quindi riuscire a immagazzinare tutte le informazioni che ti vengono dall'esterno, che è tutto caotico, e renderle razionali, no? Cioè fruibili da un'altra persona che ti sta ascoltando. Quello che è stato appunto il linguaggio, quello che è stato appunto il cinema, che è il linguaggio cinematografico, quello che è stato la musica dalla notte dei tempi, insomma, da quando si batteva sul tamburo fino a adesso tutto ciò che è elettronica, che comunque tutto va bene, cioè non esiste la musica se è figa se è suonata con la chitarra o se è figa perché c'è il rap. Basta che provoca un'emozione. Basta che appunto questa selezione di queste vibrazioni universali vengono convogliate in un qualcosa che abbia un senso, no? Perché ultimamente molte cose si fanno senza senso. Io posso dire che, ricollegandomi al discorso di Alessandro, per la mia esperienza, suonare musica strumentale è un po' una liberazione, perché mi libera, come dice lui, dal dover piacere a tutti i costi, dal paraculismo, dall'hype, dal dover piacere a ogni costo. E essenzialmente ormai io faccio musica perché piace a me, perché contando che suono da quando avevo 16 anni, sono praticamente 12 anni di concerti, che alcuni mi hanno dato soddisfazione, alcuni mi hanno dato molto meno, e io la vedo proprio come una liberazione. Mi piace molto, sono molto contenta di suonare sempre con i Jarman. Anzi, ricordiamo che il 20 maggio siamo ad Alverme per il prossimo concerto, poi speriamo di poter fare qualche festival estivo, però speriamo anche di poter incidere al più presto la roba nuova che abbiamo in serbo da potervi fare ascoltare. E, anzi, io spero sempre che il pubblico che ci viene a vedere riesca a cogliere, ognuno a modo suo, quello che sente dalle canzoni. Noi, come stasera abbiamo voluto giocare dando, diciamo, un significato ad ogni brano, ispirato dai titoli. Quindi se qualcuno conosce i titoli e sente le canzoni, ci piace anche pensare che si inventi una storia, non per forza che la storia del santo sia proprio la storia di Santo Stefano, ma cioè di qualsiasi altro santo svitato della Chiesa che abbia fatto delle cose assurde. Vabbè, io volevo ringraziare voi che ci avete ospitato. Questo non è uno spazio per ringraziare voi, scusa. No, veramente. No, parlo da fan, perché venire dopo il palcoscenico e i circuiti aperti per noi è una, come dicevo, mi avevano spenti, è una soddisfazione. Vai. Ok, allora approfitto dell'occasione per invitare tutti gli ascoltatori e voi al 10 giugno, che stiamo organizzando una sorta di festival rappresentativo di alcuni gruppi post-rock della capitale, e oltre a noi ci saranno The Aldrin, i Grimmen, gli Andy Molloy. È un momento che stiamo pensando di organizzare per promuovere un tipo di suoni che non perché deve essere differente rispetto al resto della scena o al circuito più grande, ma perché pensiamo che l'amicizia e la solidarietà fra i gruppi possa essere un valore in più rispetto a, non so, la concorrenza spietata o la voglia di apparire a tutti i costi che può. Dove? Lo Spartaco, c'è in zona tuscolana, insomma, Centocelle, più insomma Roma sud-ovest. Allora, per tutti quelli che abitano a Roma e che passano a Roma il 10 giugno, devono recarsi in zona tuscolana allo Spartaco, centro sociale che è il centro sociale dove ci sarà questo evento post-rock. Voglio salutare Greta, mandare un bacio a Greta, mia figlia, insomma, che sta, certo, anche, basta, ok. Io volevo salutare tua moglie no, a parte scherzi, volevo salutare il batterista, che si chiama Massimo. Allora salutiamo Massimo. Massimo lo salutiamo, che è stato la specializzata. Salutiamo anche Alessandro Palermo, che è il nuovo batterista. Esatto. Okay. Posso dire che militava nei Santa Rita della Saccascia, insomma, okay, gruppo storico di Roma. Da che voi non avevate parola da dire, diventa difficile togliervi il microfono. Questo è la dimostrazione che anche questa sera siamo riusciti a metterli a nostro agio. Ok? Passo l'ultimo brano e poi ci salutiamo. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. The Radio of the Misters. Thank you. Salutiamo i Sufi Garage che presto saranno qui a un'altra intervista. Ah, ok, va bene, mi fa piacere questa cosa. Io sto impegnato a fare altro, lei mi dice. E salutiamo i German che hanno fatto un'intervista questa sera, magari, no? Allora, siamo stati veramente contenti di aver percorso questo tempo insieme a voi, che ci avete regalato queste emozioni non solo musicali, ma anche questa sera fatte di parole. E posso dire che di sostanza, in quello che avete detto ce n'è molta. Continuate così perché a noi piacete, e quando ci sarà sempre la possibilità l'Altra Radio Roma cercherà di spingere i German e tutti i gruppi come loro che scelgono certe strade. Volete salutare i nostri, i vostri ascoltatori, insomma i vostri fans? Allora, abbiamo detto, vi ritroveranno il 20 maggio a... Allora, 20 maggio ad Alverme al Pigneto e il 10 giugno all'Auro Spartaco insieme agli Oldrin e i Greenham. E forse un'altra Radio Roma, non si sa. Benissimo, grazie Alessia per essere stata qui, hai conquistato, non ha più detto nulla, l'abbiamo andato a dormire, ok, sì, ok, gli hai detto che era fidanzata, gli hai bruciato tutti i rapporti, subito, ok, grazie Alessandro. Saluto Davide, saluto anche Emanuele, che è il mio ragazzo, e ma io pensavo che Davide e Emanuele quando ha cominciato a fare l'elenco ho fatto, ma quanti ce n'è? Salutiamo il nostro, scusa, Emanuele è il tuo ragazzo? Sì. Hai scoperto Emanuele che lei sta anche con Davide stasera? No, no, ma lui è al concerto degli Illuminati a vedere Alessandro. Ok, va benissimo. Ok. E come si chiama il nostro amico da Miami? È Stefano, che ci aspetta. A Miami? Speriamo di poterlo raggiungere presto. Magari. Ok, andiamo a fare la diretta a Miami. Sì, sì, noi ci andiamo. Basta che c'è una connessione a internet, noi possiamo trasmettere a tutto il mondo. Alessandro. Vabbè, ciao a tutti quanti, grazie a Nartra Radio, siete veramente simpatici, è stato veramente un piacere. E anche questa sera ce l'abbiamo fatta. Bene, io saluto tutti i nostri ascoltatori, un abbraccio prossimamente con i nostri appuntamenti e lascio il microfono alle sapienti corde vocali di Mr. Cocot. Siccome non abbiamo più tracce dei German, aspettando l'LP di 15-16 tracce che faranno prossimamente, io vi ringrazio, vi saluto e mandiamo la sigla e Mr. Cocot vi augura buonanotte a tutti. Alla prossima narra. Posso farti una domanda? Importante. Narra. Importante. Posso farti una domanda? Importante. Un'altra radio. Importante. Posso farti una domanda? La musica Creative Commons non è smessa.